Il cappello magico. Una volta, in un villaggio non lontano dalla città, viveva Coco. Era un ragazzino intelligente. Il padre di Coco possedeva un grande negozio di cappelli, proprio nel centro del villaggio. Sebbene Coco fosse solo un bambino, suo padre lo lasciava spesso vendere in sua assenza. Coco era un buon venditore ed era anche bravo in matematica. Spesso faceva delle buone vendite e realizzava un profitto decente. Il padre di Coco ammirava le sue abilità, ma era anche preoccupato per suo figlio. Caro, Coco mi ha parlato del guadagno di oggi. Va bene, no? Oh, mi piacerebbe vederlo diventare un grande uomo d'affari. Il ragazzo ha sicuramente talento, cara, ma dobbiamo essere cauti riguardo alla sua crescente arroganza. Che arroganza? Lui è bravo nelle vendite, è tutto. Ti preoccupi troppo. Ciao, Coco. Posso vedere uno di quei cappelli a bombetta? Mio padre mi sta portando a un funerale e non so cosa mettere con il mio abito nero. Bah, il cappello a bombetta è per gli adulti. Che ne pensi di comprare un cappello da strega e di indossarlo al funerale? Un cappello da strega? Non sarà sbagliato? Cosa c'è di sbagliato in questo? La parola che stai cercando è diverso, amico mio. Sarà diverso di sicuro. È un po' più costoso del cappello a bombetta, ma questo è quello che tutti indossano in questi giorni. È la nuova tendenza. Ti starà bene. Va bene allora. Vieni, lascia che te lo mostri. Guarda, papà, ho venduto il cappello da strega. Guarda quanto ho guadagnato. Oh, finalmente. Quel cappello era qui da anni. A chi l'hai venduto? Ben! Ben? Il tuo amico Ben? Come mai aveva bisogno di un cappello da strega? Non ne aveva bisogno. Ho creato un bisogno. Non è così che fai affari anche tu, papà? Creando una domanda? Aspetta. Non ho una buona sensazione riguardo a questo. Cosa hai fatto? Come hai creato un bisogno se non ne aveva uno? Oh, semplice! L'ho convinto a comprare quel cappello e ad indossarlo durante il funerale al quale andrà con suo padre! Hai fatto cosa? I funerali si celebrano per dimostrare il nostro rispetto ai morti, Coco! Hai mandato un bambino a un funerale indossando un cappello da strega? È un funerale! Non una festa in costume. Che importa? È stato un affare intelligente. Ne ho ricavato dei soldi. Guarda, sono $5. Solo perché ne hai ricavato qualche soldo? Questo non è un affare intelligente, Coco. Devi pensare alle tue azioni. Cosa faresti se suo padre venisse qui e chiedesse indietro i suoi soldi? Non credo che sarebbe giusto. Se il padre di Ben chiede indietro i suoi soldi, dobbiamo subito dirgli di no. Un affare è un affare. Quello che fa Ben con quel cappello è affar suo adesso. Pensavo saresti stato felice del fatto che mi sono liberato di quello stupido cappello. Coco uscì dalla bottega pieno di rabbia. Non riusciva a capire perché suo padre non fosse felice. Aveva fatto un buon profitto. Il padre di Coco era sempre più preoccupato per lui. Doveva trovare il modo per far capire a Coco che era importante pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Quella notte, mentre il padre di Coco osservava una stella cadente, chiuse gli occhi e desiderò il benessere di suo figlio. Voleva che suo figlio pensasse prima di agire. La stella sentì il suo desiderio. Quella notte Coco fece un sogno. Ciao, Coco. Dove sono? Tu chi sei? Io sono una fata. e sono qui per darti un regalo. Un regalo? È a causa dell'affare che ho fatto oggi nel negozio? Lo sapevo! Va bene, ecco, questo è un cappello magico. Ogni volta che lo indosserai e lo toglierai, troverai una moneta d'oro dentro. Wow! Sarò ricco! Ma ricorda, Coco, se usi questo berretto più di 3 volte, in cambio di ogni moneta perderai 1 centimetro della tua altezza. Quindi diventerò più basso ogni volta che otterrò una moneta d'oro? Va bene, me lo ricorderò. Usalo saggiamente. Buongiorno, Coco. Cosa? Cosa? Spero tu abbia dormito bene. Oh, sì, molto bene. Sembra che tu non sia più arrabbiato con me. Questo è buono. Oh, voglio dire, sì, bene, sto bene, grazie. Non avrei dovuto ricordartelo, immagino. Mi hai urlato contro e non era nemmeno colpa mia. Coco, spero che tu capisca un giorno che qualunque cosa io faccia o dica è tutto per il tuo bene. Comunque, tua madre e io stiamo andando fuori città. Saremo di ritorno in serata oggi. Fai il bravo, ok? Ma Coco non rispose. Non capiscono quanto sia importante cogliere le opportunità. Il mio unico obiettivo è quello di trarre profitto da questi cappelli. Aspetta, il mio cappello magico! Dov'è il mio cappello magico? Coco si alzò dal letto e si guardò intorno. All'improvviso vide qualcosa sotto il cuscino. Il mio cappello magico! Coco, eccitato, se lo mise in testa e se lo tolse. Il cappello aveva una moneta d'oro dentro. Coco ne fu molto felice. Ora sarò ricco, ricco, ricco, ricco! Voglio farlo di nuovo! In fretta se lo mise e di nuovo se lo tolse. Eccola lì, un'altra moneta d'oro. Coco ricordava molto bene ciò che la fata gli aveva detto. Se usi questo cappello per più di 3 volte, in cambio di ogni moneta perderai 1 centimetro della tua altezza. Queste saranno abbastanza per la settimana, immagino. Lo userò ancora una volta quando mamma e papà torneranno a casa. Saranno così entusiasti. Coco mise con cura il berretto nell'armadio e proseguì con le sue attività quotidiane. Si sentiva molto felice, ma continuava costantemente a pensare al berretto nell'armadio. Qualsiasi cosa facesse, non riusciva a non pensare al berretto. Dovrei davvero farmi tagliare i capelli, ma non ho soldi. Cosa faccio adesso? Potrei usare il berretto, ma voglio aspettare mamma e papà. Saranno felici di vedere quanto è fortunato il loro figlio. Ma aspetta, non sono un ragazzino che ha bisogno di mostrare a tutti il trucco magico. Perché invece non gli mostro i soldi? Sì, userò il cappello ancora una volta e mostrerò loro 3 monete d'oro. Coco fece come aveva deciso. Era molto felice di avere ora 3 monete d'oro nelle sue mani, ma... Solo 3 monete d'oro non sono abbastanza. E se ci pensi, sono più alto di tutti i miei amici. Forse perdere 1 centimetro non sarà poi così male. E così fece. Coco trovò un'altra moneta e in cambio perse 1 centimetro della sua altezza. Vedi? Non ho mica perso molto. Nessuno si accorgerà mai che ho perso 1 centimetro. Bene, 1, 2, 3, 4. Non sono soddisfatto. Sarebbe troppo sciocco consegnare solo 4 monete ai miei genitori. Se devo perdere la mia altezza, voglio almeno guadagnare una fortuna. Inoltre, sono molto giovane. Ho molto tempo per crescere di nuovo. Devo sfruttare al meglio questo affare. Senza pensare al risultato, Coco continuò a prendere i soldi dal cappello. E presto ci fu un mucchio d'oro sul pavimento. Guarda qua! Questo sì che è un affare intelligente! Riprenderò la mia altezza in pochi mesi e sarò comunque ricco! Oh, ora posso tornare tranquillamente a dormire. Ma Coco non si era reso conto di una cosa. Oh no! C'erano voluti anni perché Coco crescesse così e in pochi minuti aveva perso tutta la sua altezza. Aspetta! Questo significa che tornerò della mia altezza tra anni. Oh no, cosa faccio? Come faccio a riavere la mia altezza indietro? Io non posso far niente, non posso raggiungere il mio letto, non posso raggiungere il balcone della cucina per prendere i biscotti e non posso nemmeno andare al negozio. No! Coco estrasse velocemente il cappello dall'armadio e lo scosse duramente. Aveva paura di metterlo in testa, così afferrò le monete d'oro che giacevano sul pavimento e cercò di rimetterle nel cappello. Prendile! Prendi tutti i tuoi soldi indietro! Prendi il tuo oro! Prendimi la mia altezza, per favore! Fai qualcosa, stupido berretto! Coco spinse le monete così forte che il cappello si strappò. No! Cosa faccio adesso? Dopo aver pianto per qualche minuto, Coco si addormentò e fece un altro sogno. Coco, dove sei? Sono qui, guarda giù. Oddio, cosa hai fatto? Ti avevo detto di non usare. Lo so, ma volevo solo fare un affare intelligente. Pensavo che perdere un centimetro della mia altezza per una moneta d'oro fosse il modo più semplice per diventare ricchi. Coco, fare un affare intelligente non significa sempre scegliere il modo più semplice. Devi pensare prima di agire. Devi pensare al risultato delle tue azioni. Dimmi adesso, ti sembra un affare intelligente ora? No, affatto. È stato sciocco e insensato cambiare la mia altezza. Esatto. Se avessi pensato a questo, avresti scelto la strada giusta. Lo so. Adesso ho capito il mio errore. Ora, dimmi, cosa vuoi che faccia? Posso levarti il berretto e farti tornare alto come prima. Nulla cambierà. O puoi prendere l'oro e aspettare anni prima di riprendere la tua altezza. No, per niente al mondo. Prendi il berretto e tutto il tuo oro e rendimi alto come ero. Niente deve cambiare. Abbiamo un negozio e vado ancora a scuola. Guadagnerò il mio oro e so che i miei genitori saranno felici. È una buona scelta, Coco. Ecco qua. Quando Coco si svegliò, si ritrovò sul pavimento. Quando si alzò, si rese conto che era tornato nel suo vecchio corpo. Era alto. Proprio in quel momento suonò il campanello della porta. Corse per aprirla. Papà! Oh! Per quanto tempo siamo stati via? Mi dispiace, papà. Ora capisco. Avevi ragione. Solo perché sembra facile, non significa che sia un affare intelligente. Penserò sempre agli effetti delle mie azioni. Oh, l'hai capito tutto da solo? Forse dovrei lasciarti da solo più spesso, allora. No, mai! Coco abbracciò forte suo padre e promise di non agire mai più senza pensare al futuro. Fine.